E quindi una delle no, cose sull'argomento che... però, sì, voi lo fate anni e siete degni del massimo encomio, ma diciamo l'ultima delle attenzioni è proprio quella dei ragazzi che sì. non sono colpiti da adulti crudeli che si approfittano della loro tenera età, ma sono essi stessi autori attivi di un comportamento che impensierisce gli adulti, mi sembra di aver capito questo. Sì, gli adulti fanno bene impensierirsi, perché sebbene lei ha ragione, poco fa diceva che i ragazzi sono molto più capaci degli adulti di manovrare questi strumenti che fanno parte della loro cultura, chiaramente, però gli adulti fanno bene a impensierirsi, perché non è assolutamente vero A, che i ragazzi sono padroni completi degli strumenti, B, non è assolutamente vero che sono strumenti senza pericoli. Ci sono due fattori fondamentali. Uno, molto spesso ai ragazzi... Non ho mai detto questo, non ho mai detto che sono senza pericoli, né che i ragazzi sono bravissimi. No, certo, però lei diceva, fanno bene a preoccuparsi i genitori, proprio perché ci sono pericoli, e non è poi così vero che i ragazzi ne possiedano completamente... diciamo tutti gli aspetti di questo. Secondo me i ragazzi sono molto padroni della manualità, dell'aspetto gestionale, esatto. Ma non sanno naturalmente quello che ci sia dietro, non ne conoscono. Ecco, l'uso relazionale per loro è istintivo, ma è privo di pregiudizio, che in realtà dovrebbe essere in parte. Guardi, le faccio un esempio proprio pratico, una storia che è successa realmente. Adesso c'è un processo in cui noi siamo stati coinvolti direttamente, perché siamo stati chiamati in aiuto. Una ragazzina di 12 anni si scambia fa delle foto a se stesse, a un'amichetta, dentro il chiuso della propria stanza, in atteggiamento, diciamo, da veline televisive, mettiamola così, un po' discinte, eccetera. Niente di terribile, però ovviamente un pochino intime. Benissimo, la ragazzina sa quindi usare il telefonino e la videocamera del telefonino molto bene, le immagini sono ottime. Sa anche che c'è una porta nel telefonino che si chiama infrarossi, con la quale è facilmente trasmissibile a tutti gli apparati aperti con la stessa porta le immagini che lei ha preso. Lo sa, ma lei non sa esattamente che cosa può avvenire. E allora che cosa succede? Succede che l'amica di questa ragazzina aveva un fratello. La porta infrarossi era aperta e, senza che lei lo sapesse, il fratello ha cutturato le immagini che stavano sul cellulare di questa sorella, amica dell'altra ragazzina. E, insomma, per farla breve, nel giro di un mese tutti i desktop della stazione sciistica di questo paesetto italiano, che non dirò chi è, ma insomma è uno dei tanti paesetti italiani con stazioni sciistiche, tutti i desktop delle stazioni sciistiche messi di sci avevano l'immagine di questa ragazzina un po' discinta, appunto, sul desktop, sul computer. Ovviamente un giorno il padre passa da quelle parti, si accorge di questo e succede un disastro. Oggi ci sono tre persone a giudizio, perché qualsiasi immagine di ragazzo sotto i 18 anni in atteggiamenti discinti è perseguibile a termini di legge, perché è pedopornografia. Ma è anche giusto che sia così. Ecco, però, per dire, lì abbiamo un caso esemplare, ragazzini capacissimi a usare il cellulare, consapevoli che le porte infrarossi servono a trasmettere le immagini, ma affatto consapevoli che quell'immagine, una volta inserita elettronicamente in questi apparati, ecco che può volare via e andare ovunque, colpendo e creando dei pasticci anche severi alla persona che si è fotografata, al ragazzino che si è fatto fotografare. Poi si è io inserisco una piccola nota di cinismo in questo, nel senso che i ragazzini non sapessero che il Bluetooth o l'infrarossi, che deve comunque essere supportato da un'autorizzazione da parte del proprietario del telefonino, non mettesse in circolo le loro immagini. Ho qualche dubbio che queste ragazzine ignorassero che le loro immagini potessero essere messe in circolo. Comunque, essendo minorenni e inconsapevoli, questo non salva nulla. È giusto sì, che... Sì. Perché appunto il problema gioco preferito nelle classi, ma dalle scuole medie in su, è passarsi con il Bluetooth le fotografie, i messaggi, gli MP3, via dicendo. È un gioco continuo, un rimbalzo continuo. Tutti sanno che uno può autorizzare il proprio telefonino ad essere visibile e accessibile a tutti, o porre dei limiti. Ecco, però anche io la prego di di porre anche lei però un po' attenzione a quel tutti, perché che lei ha senz'altro ragione che la più parte dei ragazzi, però stiamo parlando spesso di ragazzi di 11 anni. Sì, sì, la nostra ricerca è stata fatta su ragazzi da 11 a 14. Una cosa che abbiamo notato negli anni facendo ricerche costanti di tanto in tanto è che l'età in cui tutto ciò comincia si sta drammaticamente abbassando. Ma lei non è d'accordo, mi scusi, sul fatto che il passo dovrebbe essere fatto a monte. Prima di mettere in mano uno strumento del genere a un ragazzino, bisognerebbe pensarci 50 volte e essere sicuri di potergli trasmettere assieme allo strumento le istruzioni per l'uso dettagliate. Assolutamente, io sono talmente d'accordo con lei che una politica fondamentale di Save the Children in questi anni è stata chiedere alle aziende che producono sistemi o prodotti di questo genere di essere le prime. Il nostro ragionamento è molto semplice: se lei compra una macchina, lei pretende, c'è una legge che fa sì che il produttore della macchina la debba dotare di sistemi di sicurezza, airbag, ABS e quant'altro. Perché quando compriamo un telefonino i pericoli insiti nell'uso di questo telefonino sulla nostra privacy e i nostri figli non sono dichiarati da nessuno? Perché quando accediamo a certi siti anche di chat, prima si sentivo citare Messenger, insomma questi siti a cui tutti i ragazzi entrano, perché le aziende che li producono e li gestiscono non possono fare di più per aiutare famiglie e ragazzi ad essere più allertati e più attenti? Ci fermiamo soltanto un istante, però riprendiamo l'argomento perché mi sembra molto interessante. Avevo il telefono, mi aspettava da molto tempo, so che dopo un impegno, Paolo Ferri, che è docente di tecnologia didattica e teoria tecnica dei nuovi media all'Università Milano Bicocca. Ci vuole un minuto solo per dire tutti i vostri titoli. Paolo Ferri, tu hai scritto proprio un libro, Digital Kids. Aggiungi, se possibile, una tua lettura tecnica di quello che stiamo dicendo. La capacità di trasferire assieme all'oggetto, assieme alla protesi, assieme allo strumento della fonte di ogni preoccupazione, anche le istruzioni per l'uso. I nostri genitori, i nostri adulti, noi adulti, siamo attrezzati per farlo? Ma infatti io credo che il problema vero siano davvero i genitori, nel senso che i ragazzini, i bambini ormai usano computer e tecnologie in maniera quasi naturale, a volte inconsapevoli degli effetti, per così dire, penali o dei rischi che sono implicati, ma in realtà quelli che non sono consapevoli né dell'uso né dei rischi sono molto più spesso i genitori che non i figli. E molto spesso i genitori hanno, secondo me, un'ulteriore responsabilità, cioè quella di lasciare da soli i bambini e i preadolescenti davanti alle macchine, cioè di non accompagnarli a. E quindi da questo punto di vista è vero che ci sono dei rischi, ma è vero soprattutto che la responsabilità del genitore dovrebbe essere quella di stabilire un dialogo con i nativi digitali, quindi con quelli che usano le macchine come una cosa naturale, e comprenderne i linguaggi. E questo, voglio dire, è un problema dei genitori, un problema degli adulti, un problema degli insegnanti, non è un problema dei digital kids o dei bambini digitali. Per quello che tu sai, tu hai scritto proprio un libro su questo, la scuola italiana è attrezzata, visto che la scuola è al centro di tutte le frizioni, di tutte le attenzioni, di tutte le emozioni, per un corretto passaggio di queste istruzioni. Le nostre insegnanti sono brave, grazie a Dio, a staccare i telefonini, a farli mettere da una parte e a cacciare fuori dalla classe chi lo usa, ma loro sanno esattamente cosa accade con quelle macchine, secondo te? No, assolutamente no, nel senso che è proprio una ricerca del CREMIT di Rivoltella che ci dice che solo il 13% degli insegnanti ha una qualche consapevolezza della vita online degli allievi preadolescenti. Il 13% è pochissimo, vuol dire che anche sull'esempio del telefonino, staccare il telefonino a un bambino è come tagliargli due dita, nel senso che il telefonino è diventato una delle principali forme di cura parentale. Le mamme parlano con i bambini e danno il telefonino ai bambini per rimanere in contatto, certo, con loro. Da sicurezza. È evidente, se glielo stacchi e gli stacchi due dita, cioè gli stacchi la relazione con la madre. E questo è sinonimo di come effettivamente ci sia una carenza di consapevolezza negli insegnanti, ma anche nei genitori, rispetto a cosa fanno i bambini con le macchine o i preadolescenti con le macchine e a come stare a loro vicini, come educarli, esattamente come li educhi a stare correttamente a tavola. In qualche modo dovresti avere la capacità di spiegargli cosa si fa, cosa non si fa, ma questa capacità non c'è, perché non c'è la conoscenza. Grazie Paolo Ferri e grazie Valerio Neri. Melog 2.0. Uso internet da più o meno un anno. Uso internet da 4 anni. Io ho un profilo su questi social network perché me l'hanno consigliato diversi miei amici. Prima non lo usavo molto frequentemente perché era a pagamento. Ora invece lo uso anche un'ora al giorno perché abbiamo la tariffa fissa. Ho messo internet ADSL. Lo usavo soprattutto per chattare. E in modo che potevo anche relazionarmi con altre persone, conoscere nuova gente. Più o meno vado su YouTube per giocare su vari siti, oppure vedo filmati o chatto con amici. Su questi social network possiamo caricarci foto e video. Vado a vedere video, siti sportivi. I miei genitori non mi hanno imposto dei limiti ai siti in cui posso andare, a parte i siti porno. 800240024, stiamo parlando di una ricerca, ragazzi connessi, preadolescenti italiani nuovi media, realizzata da Save the Children e il CREMIT dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Stiamo risolvendo, se possibile, l'equazione tra conoscenza del mezzo e possibilità di trasmettere ai minori la conoscenza di quel mezzo, mezzo meraviglioso, mezzo di espansione, mezzo pieno di pericoli. Le protesi elettroniche scatenano un'emotività fortissima. Conosco quella che scatenano negli adulti, immagino quella che possono scatenare negli adolescenti. Io posso sembrare una persona avanti e liberale nell'affidare tranquillamente ai propri figli questi strumenti, ma io ho un figlio di 13 anni che ancora non si è mai connesso in internet da solo, lo fa con il padre, perché non voglio che lo faccia, perché ancora non è il momento che lo faccia da solo, ma i suoi compagni di classe da anni sono tutti tranquillamente tutto il giorno su Skype, su Messenger, perché i genitori li lasciano fare, e so esattamente cosa accade in questi luoghi. Non è la paura terrificante dell'uomo nero che ti prende, ti porta via, ti uccide, anche quello, ma è il disordine emotivo e la capacità di non gestire emozioni che la macchina emozionale scatena fortissime. Agnese, buongiorno. Buongiorno, grazie di questa opportunità, Nicoletti. Io volevo dire quale tipo di genitori siamo e quale modello siamo per i nostri figli. Ancora, conosciamo bene i nostri figli. Lei prima sentivo che parlava di scuola, dove c'è docenti che ritirano il telefonino, eccetera. Però a fianco a questa scuola, noi genitori ci siamo o preferiamo non esserci per non sentirci eventualmente negatività sui nostri figli? Io penso che ognuno risolva questa equazione a casa propria. In generale il genitore non è niente astratto. Però non conosciamo i nostri figli, Nicoletti, se non teniamo conto di quello, delle conoscenze dei nostri figli esternamente. Li conosciamo solo in casa. Poi quando succedono le cose come Torino, come succedono le cose come altre situazioni, ci meravigliamo. Ma questo è sempre accaduto, però il punto di novità non è questo. Però il figlio, oggi il genitore, se tende a uniformarsi alle cose perché ce l'hanno tutti, perché lo fanno tutti, e nostro figlio non lo conosciamo abbastanza perché lo guardiamo dall'alto ma non camminiamo accanto a lui, non risolveremo mai i problemi. Ma in questo caso è esattamente quello che dice lei. Secondo me, ma io parlo per la poca esperienza che ho, la molta esperienza che ho, dipende da... Io ho un figlio di 24 anni che ha passato la preadolescenza e l'adolescenza, ne ho un altro che è dentro nell'adolescenza. Io ho visto che comunque essere fermi con delle regole, con dei no, conoscere a fondo il figlio, riesci a superare determinati problemi. Poi, per l'amor di Dio, può succedere anche effettivamente l'imprevisto, come dice lei, però monitorando bene un figlio non si può poi rimanere interdetti e dire ma cavolo, ma io non pensavo... Però le posso fare una domanda, Agnese? L'atteggiamento a volte è lievemente schizofrenico. Ho parlato prima di questa ricerca per cui c'è un 40% di genitori in più che sta usando questi strumenti per sovvegliare i figli, come fanno appunto nei casi di infedeltà coniugale, quando mette la incrospia nel telefonino della moglie o del marito, perché penso che l'unica maniera che hanno per conoscere i figli è spiarli. Ma allo stesso tempo abbiamo sentito dagli esperti che abbiamo che il vero problema sarebbe che i genitori dovrebbero conoscere a fondo queste macchine che mettono in mano ai figli, non per conoscerli meglio, per aiutare i figli a conoscere meglio il mondo, maniera indispensabile che oggi... Ascolti, Nicoletti, io posso avere anche fiducia nell'uso di questo strumento se conosco bene internamente mio figlio. Le ripeto, perché io veramente, anche il computer, io mio figlio l'ho dato, però gli ho dato anche delle regole di uso del computer. E il computer, siccome lo uso anch'io, ho sempre cercato eventualmente di dirle che non deve mettere obblighi o situazioni strane, perché io non posso entrare in quel computer, anche se è su nella loro mansarda, per dire, perché voglio avere anch'io l'uso di questo computer. Ha capito? Per cui io penso che... Quindi prima dice, è una macchina condivisa, quindi tieni conto che anche tua madre c'entra, non mi fare... Ma certo! Non mi mettere in imbarazzo. Il telefonino io a mio figlio non gliel'ho dato fino alle superiori, ma lui non si sentiva la mosca bianca. Perché io dicevo, quando sarà il momento te lo darà anche, lo avrai anche tu, ma perché ci sono delle regole di vita che a volte uno bisogna che le accetti, non bisogna essere... Io mi rendo conto che a volte sono considerata un genitore, una mosca bianca, però voglio dire... Ma guardi, meno di quello che lei creda, perché conosco tante persone che... e condivido io stesso quello che lei dice. Guardi, che le regole forse ancora oggi e i valori, Nicoletti, sono quelli che fanno andare avanti il mondo. Sì, i valori quelli sono... Che invece sono... i genitori si uniformano a tutta la situazione, ma ce l'ha l'amico, lo fa anche mio figlio, ma non è vero, perché lui si chiama Matteo, l'altro si chiama Roberto, Matteo deve fare quello. Guardi, che... Guardi, poi la lascio, io posso dire, io per motivi miei personali di lavoro, ci ho scritto libri, ci ho pensato, riflettuto, ne ho parlato alla radio per anni, conosco bene cosa fanno i genitori in questi luoghi, quindi posso dire che ci sono genitori che li conoscono benissimo, sanno benissimo cosa sono, se li mettono in mano ai figli evidentemente hanno o dissennatezza nel calcolare, valutare il rischio, o in fondo pensano che quella sia un'esperienza che i figli debbano passare. Pietro, buongiorno. Buongiorno, sono afono, però ci provo. Sì, sentiamo. Allora, volevo dire innanzitutto, io ho insegnato ai miei figli come si usa il telefonino, però gli ho preso un telefonino senza videocamera e che non si collega a internet. Questo non è sufficiente perché comunque le relazioni che i figli interscambiano ci sono sempre sconosciute. Volevo dire comunque che la spiata ci porta un'informazione inutilizzabile, perché quello che tu carpisci poi non lo puoi usare in un rapporto vero con tuo figlio. È come l'ansia del cornuto che guarda il telefonino, esatto, della moglie, esatto, o del marito. Non ti serve a niente, a meno che non vuoi entrare pesantemente. Non salva il rapporto incrinato. Esatto, non salva il rapporto. L'altra piccola cosa che volevo dire è che mia moglie è un insegnante, un'analfabeta informatica, come le dico io, fino a pochi mesi fa, quando si è accorta che i suoi alunni si passavano in classe la versione di latino tramite telefonino online. Ecco, io credo che mia moglie oggi potrebbe occuparsi di disinfestazione e di hackeraggio, no? E sta cercando di far per disporre un'aula blindata nella scuola per impedire che questo accada. Quindi sì, esistono sistemi elettronici, ma sarebbe meglio in fondo far capire ai ragazzi che questa cosa qui fa parte dell'andare contro le regole, come diceva prima la nostra ascoltatrice. È giusto ci siano delle regole, stabilita la regola poi si crea una linea di discrimine fra chi segue la regola e chi va contro la regola. È come copiare il compito passato con il Bluetooth. Ai miei tempi un compito copiato era annullato, un compito passato con il Bluetooth è un compito annullato, ma è giusto che l'insegnante probabilmente tenga acceso anche il suo telefonino e guardi il tutting che passa nella sua classe. Probabilmente questo potrebbe essere uno dei motivi. Mara, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, sempre interessanti le vostre notizie. Io sono una mamma di un ragazzino di 14 anni e intervenivo di Modena e intervenivo per così portare la mia perplessità relativamente al fatto che forse come genitori in effetti stiamo perdendo di vista alcune cose. Mi riferisco al fatto che a 12 anni alle medie mio figlio felice e contento viene dicendomi: mamma, passa sul telefonino di una nostra amica, lei che si è ripresa spogliandosi, ovviamente mantenendo l'intimo. Dico: Stefano, cosa ne pensi? La tua amica fa le medie, ha 12 anni, mamma, non ci sono problemi, lei tanto da grande vuole fare la porno star, e quindi è un mestiere normale fare la porno star? Sì, è un'attività, e uno sceglie di fare la porno star o sceglie un altro mestiere, così come fare l'impiegato in banca o un'altra attività. È chiaro che sono casi un pochino, penso abbastanza diffusi, ma abbastanza agli estremi, ma d'altronde molte volte basta anche guardare i padri, le madri dei genitori per capire poi che in fondo la semenza deriva in maniera molto diretta da esternazioni, usi, piacevolezze o spiacevolezze molto frequentate anche dagli adulti. Ecco, volevo riprendere solo un istante, poi parleremo approfonditamente con lui e della sua ricerca, visto che abbiamo preferito mettere sul piatto le testimonianze, il direttore generale di Save the Children, Valerio Neri. Ecco, ascoltato qualcuna delle testimonianza caldo ai nostri ascoltatori. Alla luce invece della vostra ricerca, vediamo un po' se è possibile fare un punto di quella che è la situazione di fatto in questo rapporto difficile. Sì, beh, no, io risento la mia voce. Sì, sì, ma adesso gliela togliamo. Parli allora, pure, la sentiamo benissimo. Noi la sentiamo diciamo, meglio. Per legarmi anche alle cose che hanno detto gli altri amici, gli ascoltatori che sono intervenuti, quindi la relazione ragazzi-genitori, la ricerca evidenzia in maniera drammatica quanto i genitori non siano presenti quando i ragazzi hanno bisogno di aiuto nelle varie occasioni di difficoltà che si trovano ad usare in questi tipi di mezzi. Per esempio, alla domanda se hai mai avuto la sensazione di essere contattato da un adulto in chat, o se hai avuto la triste sensazione che le tue immagini vengano usate da altri in maniera distorta, o che qualcuno ti chieda di entrare in discorsi sessuali che non avevi previsto di voler fare. Allora, in questi casi, a chi ti sei rivolto? Per esempio, a questa domanda soltanto il 5% risponde che si è entrato in queste vicissitudini e si è rivolto ai genitori. Ecco, e come si comportano invece? Si consultano fra coetanei? Ecco, la cosa maggiore è la consultazione fra coetanei. Quella supera oltre il 25%. C'è invece una buona parte di ragazzi che di fronte a queste difficoltà non ne parla con nessuno. E questo è un altro aspetto di preoccupazione, perché è chiaro che di fronte a un problema di questo tipo tutti vorremmo augurarci che il ragazzo ne parlasse. Ovviamente. Ecco, secondo lei, dottor Neri, questo accadeva anche in tempi analogici, il ragazzo infastidito, brutalizzato, spaventato difficilmente andava a raccontarlo a casa, si chiudeva in se stesso, sì. I genitori saranno bravi, interpretavano il suo mutismo come un problema. Oggi il problema diventa levemente più articolato perché non è più un contatto diretto, ma è qualcosa da un certo punto di vista prevenibile perché passa attraverso le macchine, da un altro punto di vista ancora più diffuso e più invasivo perché sono macchine molto profonde. Ecco, in questa differenza cosa può fare la famiglia? Cosa può fare, scusi? La famiglia. La famiglia, come ha detto molti delle persone che mi hanno preceduto, può fare molto, nel senso di avere un rapporto sempre molto aperto con i propri figli. Cioè bisogna riuscire sempre a tenere aperto il dialogo, il colloquio, a qualsiasi età. Per fare questo bisogna essere estremamente sinceri come genitori. Per esempio, noi abbiamo notato che molti genitori hanno difficoltà a parlare ai figli del fatto che ci sono degli adulti che possono avere degli interessi aberranti nei loro confronti. Quindi abbiamo coscienza di genitori che hanno difficoltà a parlare di pedofilia, di parlare di questi aspetti. Quasi che un genitore abbia difficoltà a parlare del male al figlio, no? Quasi che insomma si sentisse un po' responsabile di averlo portato in una società che ha degli aspetti anche di orribili. Però anche perché molto comprensibilmente lui stesso è ignorante molto di cosa avvenga, soprattutto attraverso quali meccanismi, con questi strumenti che poco conosce, possa avvenire questa terrificante e antica maniera di mettere in crisi e di colpire l'adolescenza, le persone più meno attrezzate per potersi difendere. Saluto e ringrazio il dottor Neri. Melog 2.0. Anni fa, con una gita con dei professori, la nostra è una classe scuole medie, abbiamo preso una stanza e abbiamo compiuto gli atti più terribili che si possono immaginare dentro quella stanza. Abbiamo sventrato materassi, sventrato comodini, cassetti, sedie, poltrone, tutto. Tutto, e oltre a questo abbiamo, si può dire, urinato un po' da tutte le parti sostanzialmente. E oltre a questo abbiamo fatto anche di peggio, adesso senza mandare nel macabro, insomma, sono schifoso. Eppure nulla di tutto questo è mai stata una notizia. A quel tempo, se avessimo avuto un videocellulare, avremmo ripreso sicuramente tutto quanto. Forse sarebbe stata una notizia, forse sarebbe stato riportato da qualche parte, in qualche giornale. Niente di cattivo, ma insomma, eravamo lì con i professori nell'altra stanza e abbiamo creato il panico, ecco. 800 24 00 24, stiamo parlando del rapporto problematico tra adolescenti, generazioni adulte, mediato da delle protesi emozionali, che sono degli strumenti che i ragazzi usano per espandersi, ma usano anche per amplificare quelli che sono i problemi, le trasgressioni legate alla loro età. Questo ascoltatore ci racconta candidamente ciò che tutti sappiamo, abbiamo sempre saputo e forse in parte abbiamo sempre fatto, che gli atti di bullismo, di spavalderia, di vandalismo sono sempre esistiti. Oggi hanno una luce diversa, oggi sono amplificati dal fatto che possono essere ripresi, quindi entrano velocemente nella memoria collettiva, escono dall'esperienza personale che poi diventa facilmente strumento a volte anche di riflessione sui propri comportamenti, di possibilità di trasferire informazioni sui corretti comportamenti, ma quando passa attraverso un telefonino, entra su YouTube e tutti lo vedono, diventa qualcosa, entra nel grande spettacolo dell'esistenza, e nel gestire il grande spettacolo il vero problema, il vero rovello di questo momento che stiamo attraversando. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Lei è un insegnante. Sì, io sono docente di storia dell'arte e vorrei aprire così uno spiraglio di luce positivo per nell'uso del web. Ma noi non siamo catastrofisti, facciamo un'immagine, una fotografia, poi è la realtà, purtroppo. Siamo fiduciosi che questi strumenti aiutino l'umanità, senz'altro, moltissimo. Certo. Io volevo portare la mia esperienza. Io sono un'insegnante ormai anziana, fra poco andrò in pensione, tra pochi anni, e non ero molto abile nell'uso del computer e comunque di queste macchine informatiche. Mi ci sono avvicinata piano piano proprio per essere più vicina ai miei allievi, per i quali mi rendevo conto era una cosa essenziale. E allora ho pensato, proprio per capirli e anche per aiutarli, per istradarli nel modo migliore a questa attività, ho pensato di aprire un forum dedicato alla storia dell'arte e all'archeologia, nel quale io mi diverto per prima nel passare notizie. Lei è la moderatrice di questo forum? Sì, sono l'amministratrice e moderatrice di questo forum. Quindi si è tirata sulle maniche e ha colmato il digital divide della sua esistenza. Sì. Io scrivo di tutto, parlo di autori, di pittori, di artisti, di architettura, di luoghi d'arte, di mostre, però c'è uno spazio dedicato ai miei studenti dove loro possono chiedermi suggerimenti, soprattutto molto usato questo spazio nell'ultimo anno di corso. Senta, una cosa, Anna Maria, questa attività la fatica o la diverte? Ah, mi diverte e soprattutto mi aiuta a seguire più da vicino i miei studenti. Noi abbiamo così poche ore di storia dell'arte nei licei e probabilmente saranno ancora più dimezzate. Quindi ha dilatato il tempo della lezione e in realtà è come il pifferaio magico, se li porta come topolini comunque a continuare a studiare la sua materia, perché li porta in un ambiente a loro congeniale. Brava. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei, piacere sentirla. Come dicevo, le sue Ma una volta mi insultavano tutti, adesso non mi insulta più nessuno. Io non so, o mi sono ammalato Non l'ho mai insultata. Io mi divertivo. Anzi. Io sono stato 3 anni colmato di insulti, la gente voleva ammazzarmi, mi pagava perché me ne andassi, mi diceva che ero uno schifoso. Adesso tutti affascinati e gentilissimi. Mi fa piacere, ma è cambiato qualcosa. Prego, andiamo avanti. Vabbè, diciamo che hanno smesso di ascoltarla, molto probabilmente. Ah, ma questo mi dispiace. Come dicevo, la sua collaboratrice, mi trovo d'accordo. Se in Tonti si sente chiamare collaboratrice un'altra volta, penso che la viene a cercare a casa. Prego. Non abito molto lontano da voi. Mi trovo molto d'accordo con una signora che ha chiamato poco prima di me. Io ho 3 figli. 52 anni, il primo ne ha 19, il secondo 16 e il terzo ne ha 14. Mi ha sempre domandato come facevate, come fate, perché abbiamo genitori molto lontani dove abitiamo noi. Tanti no e tanta pazienza e tante rinunce. I miei figli li controllo, li vado a vedere i messaggi sui cellulari, loro non lo sanno, gli ho contato una palla. Ma mica tutta la vita potrà far questo, diventa faticosissimo. No, per l'amor di Dio, io dormo poco la notte, quando vedo c'è qualcosa che non va voglio andare a vedere, voglio andare a capire. Viaggiano su internet, a casa mia c'è un 4 computer, quindi... Anche quello di 13 anni da solo? Ha cominciato anche lui adesso, però li teniamo sotto controllo. I miei primi due, il primo è appassionato di informatica, chatta con gli amici degli scout, con amici di scuola, con la scuola stessa, crea programmini sempre per la scuola. Il secondo chatta un po' di più e gioca molto. Poi mi sembra di aver capito, come diceva prima il direttore di Save the Children, che in realtà il passaggio delle informazioni, dei saperi, passa attraverso i fratelli. C'è un fratello maggiore che ha 19 anni, quindi ormai è un adulto anche lui, e c'è da sperare, e ci auguriamo, che sia lui a fare le veci dei genitori, che magari sarebbe bene che perdessero meno tempo a stare la notte alzati a guardare i messaggini dei figli. Chiudiamo con Luciano a 30 secondi. Luciano. Sì, velocemente. Io sono uno che lavora nel settore e ho un figlio di 9 anni che già inizia a voler andare su internet. Non glielo nego, perché sarebbe... 9 anni. 9 anni, sì. Sarebbe ridicolo, perché vede gli amici, vede... Io non ci trovo niente di ridicolo, guardi, io ho un figlio di 9 anni e uno di 13, non ci vanno se non con il papà, e non è che si tagliano le vene dalla disperazione. Esatto, è proprio questo, cioè bisogna assolutamente essere lì vicino. Cioè lo vedono con gli amici. È come quando ci negavano a noi il motorino, poi quando si prendeva il motorino di qualche amico si andava a palla. Allora bisogna stargli accanto e fargli vedere che cosa può fare internet, sia in positivo che in negativo. Questo secondo me è quello che gli ha insegnato, e chi non è ancora pronto lui stesso a fare questo, bisogna che faccia uno sforzo e cerchi di imparare per poter insegnare. Ecco, il punto è questo, visto che siamo arrivati in fine e ci salutiamo. L'appello che si può fare, noi non facciamo mai appelli, ma il consiglio è: perdete un po' di tempo per capire anche voi cosa sono queste macchine, cosa fanno, anche se sono convinto che la maggior parte di voi lo sappia benissimo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.